tutta mussa che in giù perché ti uffè. Perché ti insisti a pigiarlo in tuo pane. Un'altra dose di belin che poi dentro di te non basta mai. Te anche un bel usueno, dimmi perché ti fè. De donne ti naviesci proprio quante ti vè. Invece ti uppigi solo de re. Dimmi perché, perché ti fè. Perché ti fè, non rispondi me se nutte, non le piace, vedo le lacrime in te gite, e ti di me che non ti senti, ma mammi non che credi. Barbia le avestia e ti acciamavi tria. Perché, perché ti fè con tutta quanta mussa che in questo mondo e cala speta su lui, inda una botta e via. Mi non capisci.